giornale radio del Friuli Venezia Giulia. 4 milioni e mezzo di fondi regionali per la scuola serviranno a finanziare ore di lezione aggiuntive, compensi per personale ATA e nuovi progetti didattici, compresi quelli legati all'attività motoria. Caso Tirso, domani manifestazione a Muggia, Confindustria, Alto Adriatico e gli altri sindacati contro la CGIL che l'ha organizzata. Omicidio di Gemona, domani nell'abitazione dei Venier un nuovo sopralluogo degli investigatori, dalla Colombia la conferma, Mylin soffriva di disturbi psichici. Migranti a Trieste, decine per la strada, la situazione dell'accoglienza è grave, continuano gli arrivi, gli ultimi trasferimenti non hanno migliorato la situazione. Nuovo albergo a Grado, serrato dibattito politico a Pordenone, seduta pubblica della giunta comunale sui parcheggi. Lo sport, il basket, la nazionale a Trieste prepara i campionati europei, sabato l'amichevole contro la Lettonia. Le 12.31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Andrei Marušić. La regione ha stanziato 4 milioni e mezzo di euro per finanziare ore aggiuntive di lezioni e attività didattiche per il personale ATA. Oltre 1,5 milioni di queste risorse è stato previsto per coprire ore aggiuntive per gli insegnanti di sostegno. I fondi saranno disponibili già a settembre in modo che i singoli istituti scolastici possano predisporre i progetti didattici. Sono finanziabili anche quelli relativi all'attività motoria. Il pacchetto scuola è una misura introdotta dal Friuli Venezia Giulia nell'epoca Covid per supportare con ore aggiuntive l'attività e la progettualità didattica delle scuole. Per l'anno scolastico che parte a settembre, la Regione ha stanziato a questo proposito 4 milioni e mezzo di euro, di cui 2 milioni per l'incremento orario del personale ATA. Un'altra parte consistente della misura presentata dall'assessore all'istruzione Rosolen copre invece le aree di inclusione, con oltre 1,5 milioni di risorse che consentono di offrire ore aggiuntive rispetto a quanto già previsto dal Ministero per la disabilità, per i disturbi dell'apprendimento e per i BES, i bisogni educativi speciali. Proprio per questi ultimi la Regione ha previsto 900.000 euro che equivalgono a quasi 18.000 ore aggiuntive. La novità per quest'anno riguarda 500.000 di euro per progetti didattici legati alle attività motorie e fisiche e 150.000 euro per le eccellenze, ovvero la preparazione alla partecipazione a gare e competizioni internazionali in varie materie. La ripartizione dei fondi è frutto dell'accordo con l'ufficio scolastico regionale, ha spiegato ancora l'assessora Rosolen, che ha anche specificato che, vista la grande richiesta da parte delle scuole di fondi per sostenere con ore aggiuntive lo studio di lingue straniere, la Regione ha pubblicato un bando che stanzia 600.000 euro all'anno per finanziare percorsi didattici per l'apprendimento di lingue comunitarie. Sugli appalti scolastici, che valgono complessivamente 17 milioni di euro e prevedono l'allestimento di laboratori con fondi PNRR, ma anche l'organizzazione delle escursioni didattiche e la gestione dei distributori automatici, è stato accordato che sarà la centrale unica di committenza della Regione la stazione appaltante anche per l'ufficio scolastico regionale. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. E domani a Muggia la CGIL organizza una manifestazione aperta a tutta la cittadinanza, con ritrovo alle ore 10 in piazzale Alto Adriatico, a sostegno delle lavoratrici e lavoratori della Tirso. La decisione arriva in seguito all'avvio della procedura di licenziamento collettivo e al diniego del management della Tirso di fornire informazioni in merito alla reale presenza di un interessamento formale da parte di un soggetto industriale a garanzia della continuità produttiva e occupazionale del sito. L'azienda dovrebbe sciogliere il riservo entro la data del 28 agosto, data ultima per l'impugnazione del licenziamento da parte delle organizzazioni sindacali. Per gli altri sindacati serve unità, non polemiche, e sottolineano che la priorità è la tutela dei lavoratori e negano che sulla crisi non si sia fatto niente. Per la Regione è necessario evitare polemiche sterili e veicolare ai lavoratori messaggi fuorvianti, e quanto espresso dagli assessori regionali al lavoro Alessia Rosolen e alle attività produttive Sergio Emilio Bini nel commentare la manifestazione indetta dalla CGIL. Secondo il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, stupisce ma non troppo la presa di posizione della CGIL sulla crisi e ribadisce che da luglio 2024, quando è emersa l'irreversibilità della situazione, Confindustria e Regione si sono attivate per trovare soluzioni che assicurassero il mantenimento di un'attività industriale e il pieno reimpiego dei lavoratori e delle lavoratrici dell'azienda. La cronaca giudiziaria, le indagini sull'omicidio di Gemona, l'appello di Maylin Castro Monsalvo sull'affidamento della figlioletta ai nonni colombiani è arrivato dal carcere di Venezia, dove la donna è detenuta da alcuni giorni. Nuovi dettagli intanto sulla sua condizione psichica, mentre non c'è ancora una versione di Maylin riguardo alle modalità con le quali sarebbe stato ucciso il compagno Alessandro con la madre di lui, Lorena. Domani un nuovo sopralluogo nella casa di Gemona, in cui la vittima è stata anche sezionata e occultata. La promozione a gennaio con un ruolo di responsabilità, la rinuncia a luglio dello stesso anno, dimissioni irrevocabili. La mia professione e il senso di responsabilità non mi permettono di ignorare situazioni di questa portata. Firmato Maylin Castro Monsalvo, crisi d'ansia, depressione, paranoia, insonnia cronica. Siamo a luglio del 2021 e questi sono i documenti ufficiali del comune di Puerto Colombia, cittadina affacciata sull'oceano Atlantico, dove risiedeva la giovane accusata di aver ucciso e fatto a pezzi a Gemona del Friuli il corpo del proprio compagno Alessandro assieme alla madre di lui. Dalle carte emerge che già all'epoca la giovane, laureata in psicologia e con una sua indipendenza economica, fosse caduta in una grave crisi depressiva, sembra proprio post-Covid, con la necessità anche di ricovero. La fragilità quindi è emersa dopo la gravidanza, le crisi postpartum di cui si è parlato in questi giorni non sono questo il primo segnale della grave sofferenza psicologica di questa ragazza. Noi siamo con l'avvocato di Maylin Monsalvo, Francesco De Carlo. Lei ha incontrato la sua cliente, come le è apparsa? Allora, l'abbiamo incontrata, però ci siamo fermati a parlare esclusivamente della bambina, sostanzialmente, di quello che è appunto il procedimento davanti al Tribunale dei minorenni, che si è ovviamente aperto, e abbiamo parlato esclusivamente di questo. Dal documento che abbiamo in mano è chiaro che la ragazza fosse molto fragile, non solo qui in Friuli, ma anche un tempo, ormai da anni, dal 2021. Sì, in verità questo documento non fa altro che confermare quanto c'era già stato detto dai parenti, dai familiari di Maylin, ovvero sia che al di là di questa depressione postpartum, anche in passato c'erano stati dei gravi problemi che avevano addirittura compromesso la professione di Maylin. E di questo chiaramente fino ad ora non avevamo evidenze. È chiaro che questo documento ha una sua rilevanza. Udine, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Le indagini sull'omicidio di Liliana Ressinovic, l'impronta rinvenuta su uno dei sacchi neri in cui era infilato il cadavere della donna, non è la traccia lasciata da un guanto ma dalla trama dei jeans che indossava la vittima. E quanto emerge dalle analisi del gabinetto interregionale del Triveneto di Polizia Scientifica di Padova, alla quale la Procura di Trieste aveva affidato accertamenti dopo che il GIP, Luigi Dainotti, aveva rigettato la richiesta di archiviazione, lo riporta il quotidiano Il Piccolo. Il GIP aveva chiesto venisse eseguito un esame comparativo tra l'impronta guantata in trama di tessuto e i guanti utilizzati dagli operatori, onde accertare o escludere l'intervento di terzi sui sacchi che coprivano il cadavere e il guanto sinistro rinvenuto a pochi metri dal cadavere. La trama di quest'ultimo e quella sul sacco sono risultate incompatibili. È stato quindi avviato un esperimento usando i jeans della vittima e alcuni campioni di sacchi delle immondizie simili a quelli in cui era infilato il cadavere. Sono state replicate le condizioni ambientali e sono stati usati adesivi istantanei che hanno riprodotto impronte a trama regolari simili e confrontabili con quella evidenziata sul sacco che ricopriva gli arti inferiori di Liliana. Anche le ulteriori verifiche fatte sulla GoPro che Sebastiano Visintin, marito di Liliana e unico indagato per la morte della donna, aveva installato sulla sua bicicletta, aggiunge il quotidiano, e che ha ripreso il percorso fatto dall'uomo dalle 12.16 alle 13.33 del giorno della scomparsa della moglie, non hanno evidenziato novità. Secondo il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale, le coordinate GPS di inizio dei video, che di fatto costituiscono parte dell'alibi di Visintin, sono in accordo con le immagini riprese dalla videocamera e gli orari dei file trovano riscontro con quanto dichiarato da Visintin e con quanto riportato dalla ricostruzione effettuata dal personale della squadra mobile. La situazione dell'accoglienza a Trieste è ancora lontana dalla sistemazione del centro di prima accoglienza di Camposacro, mentre aumenta il numero degli arrivi. Decine i migranti che dormono per strada e non hanno risolto la situazione ai più recenti trasferimenti. Dormono nascosti nei magazzini del Porto Vecchio, dove è difficile evitare la sporcizia e le tracce di chi è già partito. L'aria è soffocante, irrespirabile. Escono al mattino presto, hanno tutti gli zaini in spalla, chi ha un sacco a pelo se lo tiene stretto. Dormire nei magazzini è pericoloso perché qui picchiano e rubano. In tanti scelgono di dormire sotto la tettoia, all'entrata al Porto Vecchio. All'aria aperta si respira meglio ed è meno pericoloso, anche se proprio qui è stato picchiato un ragazzo, ci raccontano questi giovani afghani. La nazionalità più numerosa tra i migranti, il 70%. Il numero dei richiedenti asilo senza un posto in accoglienza sta aumentando, lo hanno appena denunciato le organizzazioni che da anni stanno chiedendo alle istituzioni di allestire un centro di prima accoglienza. 3 giorni fa dormivano in strada oltre 180 persone, una quindicina erano famiglie. Attualmente sono soltanto 80 i posti nel CAS al Camposacro. I lavori sull'impianto fognario che farebbero aumentare la capienza a 160 posti, di cui si parlava un anno fa, subito dopo lo sgombero del Silos, non sono ancora partiti. In luglio la gara è andata deserta. Le associazioni mettono a disposizione una 60ina di posti letto, ma non bastano. Sono arrivato 5 giorni fa e spero che tutto questo finisca presto. Andiamo ogni giorno in questura, invece il racconto di questi nepalesi. Aspettiamo e poi ci dicono di tornare 2 ore più tardi, quando l'ufficio è già chiuso, ci dicono. Io ho ottenuto i documenti in 12 giorni, ma devo aspettare in queste condizioni fino a settembre per l'audizione, ci racconta questo ragazzo nepalese che ci ha messo 2 anni per arrivare a Trieste. Intanto, proprio ieri è stato effettuato un trasferimento di una 50ina di migranti fuori regione, ma la situazione per tanti non è cambiata. Ho 21 anni, studiavo medicina in Afghanistan. Ho visto violenza, morte, fame e sofferenza durante il mio lungo viaggio. Sono partito perché la situazione nel mio paese è inumana e perché pensavo di trovare umanità in Europa. Ecco perché sono qui. Trieste, Vaciucchi, GR, Friuli Venezia Giulia. L'ufficio del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Udine, l'associazione La Società della Ragione, l'associazione Icaro Volontariato Giustizia ODV in collaborazione con Coop Alleanza 3.0 lanciano un appello e una raccolta di fondi a favore dei detenuti del carcere di Udine, denominata Ferragosto in carcere. I proponenti sollecitano quello che definiscono un piccolo grande gesto, contribuire all'acquisto di pacchi idoneo di generi alimentari e voluttuari, un modo per far sentire l'impegno degli operatori e delle associazioni di volontariato che parallelamente sono attive per promuovere una riforma della giustizia. Un giro di taxi abusivi da e per la Baia di Sistiana, che fruttava decine di migliaia di euro, è stato scoperto nell'ambito di un piano coordinato dalla Prefettura di Trieste con l'ausilio della Polizia Locale Cittadina e la Guardia di Finanza. L'operazione è stata messa in atto sabato scorso. All'esterno dei locali nella Baia di Sistiana sono stati individuati conducenti di veicoli italiani e sloveni che offrivano servizi di trasporto a pagamento agli avventori presenti nelle vicinanze. Il servizio partiva da un minimo di 20 euro per i tragitti brevi. L'attività abusiva si svolgeva con 4 veicoli, tutti omologati per uso privato, tra questi uno era intestato ad un'associazione no profit. I veicoli sono stati sequestrati, inoltre durante i controlli è emersa la positività all'alcol test di uno degli autisti. Oltre alla confisca dei mezzi è scattata la sanzione amministrativa, che in questo caso va dai 1.800 ai quasi 7.300 euro. Il progetto per la realizzazione di un nuovo albergo sul lungomare di Grado sta sollevando un vivace dibattito nella cittadina. Siamo andati a sentire le posizioni nel serrato confronto tra le forze politiche. Passeggiando sulla diga Nazario Sauro appare in tutta evidenza lo spazio già libero su cui la nuova proprietà che fa capo alla società austriaca Sanssouci dell'imprenditore Norbert Leo Winkelmeier intende realizzare un albergo a 5 stelle di 6 piani con piscina a cielo aperto all'ultimo livello. L'approvazione del progetto particolareggiato risale già al 2017, ma il precedente investitore aveva abbandonato l'iniziativa. La base edificabile di 365 metri quadri è adiacente allo storico castelletto degli inizi del Novecento, in cui soggiornò anche Luigi Pirandello e su cui c'è un vincolo comunale. Il progetto prevede che gli ultimi 4 piani dell'albergo vadano a sormontare parzialmente il castelletto, ottenendo così una volumetria totale di 4.000 metri cubi. La realizzazione dichiarazione ha suscitato un vivace dibattito in Consiglio Comunale. Sentiamo Renato Bonaldo di Forza Italia. Ritengo che l'intervento edilizio risulti impattante sotto l'aspetto paesaggistico e non rispettoso di quella che è la nostra storia. Per tale motivo ho interpellato la soprintendenza, la quale ha risposto di aver interessato il Comune chiedendo una rivisitazione progettuale che si risulti più rispettosa del territorio e dell'ambiente e salvaguardi il Castelletto, che è un bene vincolato. L'assessore all'urbanistica e lavori pubblici Luciano Cicogna. Quello che ha colpito molto l'opinione pubblica cittadina è il fatto che questo progetto ha un aggetto che va a sovrapporsi parzialmente con il Castelletto stesso, appunto. E nel nuovo progetto questa sovrapposizione è stata addolcita con la creazione di una rastremazione rotondeggiante e poi anche i pilastri che originalmente erano previsti all'estremità dell'aggetto adesso sono stati postati più verso il corpo centrale. Fra gli obiettivi dell'amministrazione comunale è quello di aumentare la capacità ricettiva con alberghi di qualità. Grado Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. E a Pordenone la giunta comunale si è riunita in una seduta aperta al pubblico. Al centro del dibattito l'approvazione del piano parcheggi in via Colonna. Approvato dalla giunta comunale di Pordenone il piano attuativo nell'ambito della riqualificazione di via Colonna. Nella zona adiacente la questura di Pordenone è in atto da tempo la rivalorizzazione della zona avviata con il cantiere dell'ex birrificio che diventerà sede dell'ITS Alto Adriatico. Il progetto, che vedrà la costruzione di una palazzina di 3 piani per circa 9 appartamenti con parcheggi di pertinenza, e appunto i parcheggi erano lo scoglio da superare, visto che secondo il regolamento comunale approvato d'inizio anno erano previsti 3 stalli di relazione che devono essere messi a disposizione pubblica. Ma per la complessità della viabilità dell'incrocio con Piazzale Palatucci non avevano ottenuto il via libera dalla municipale. Lidia Diomede, assessore all'urbanistica. Il privato non può realizzare i 3 stalli, pagherà una somma di denaro stabilita dal regolamento, in modo che il comune, nel momento in cui acquisisce delle aree a parcheggio, possa utilizzare le somme per realizzare quegli stalli, ovviamente altrove, perché nel posto specifico non è possibile. Il terreno dove verrà edificata la palazzina è nelle vicinanze con il laghetto di San Carlo e necessitava di approfondimenti progettuali, che hanno portato anche alla cessione di una porzione limitrofa al laghetto stesso al comune e che permetterà, oltre a una migliore manutenzione delle sponde, anche la possibilità di costruire un belvedere per la fruizione della zona naturalistica. Pordenone, Biagi Ingenito, TGR, Friuli Venezia Giulia. Uno sguardo alla situazione del tempo, abbiamo cielo sereno su pianura e costa, da poco nuvoloso a variabile in montagna. Le temperature registrate alle ore 11, a Trieste 25,5 gradi, mare poco mosso e Borino a 20 orari. E poi a Udine, a Gorizia abbiamo 25,5 gradi, a Pordenone 24,5. A Tolmezzo 23,5 gradi, a Tarvisio e a Sappada 19,5, a Forni di Sopra 21,5, sul Piancavallo 18,5, in quota sullo Zoncolan 14, sull'Ussari 13, sulla costa grado 26 e a Lignano 25,5 gradi, con temperatura del mare 24 a grado, 25 a Lignano. Le previsioni dell'ARPA questo pomeriggio su pianura e costa cielo sereno, sulla zona montana poco nuvoloso dal pomeriggio, i venti presenti al mattino ruoteranno a brezza, temperature nella norma del periodo, e per domani bel tempo con cielo in prevalenza sereno e venti di brezza, temperatura in aumento con le massime che torneranno a superare i 30 gradi in pianura. La pagina della cultura e degli spettacoli prosegue a Villa Manin, la mostra Architetture Trasparenti, un percorso immersivo nell'arte contemporanea, un viaggio tra spazi che si trasformano, volumi attraversabili, trasparenze. Alcuni tra i maggiori nomi dell'arte contemporanea hanno realizzato 16 installazioni utilizzando vetro, specchi, fili colorati, tessuti, grandi opere allestite sia all'interno della Villa Dogale sia negli spazi esterni, architetture leggere che danno la sensazione di camminare sospesi tra suoni e illusioni ottiche, anche numerosi bambini fra i visitatori. Nell'ultimo fine settimana sono stati staccati 1.000 biglietti, altrettanti in quello precedente. Architetture trasparenti si potrà visitare fino al 26 ottobre, dal martedì alla domenica, con orario continuato dalle 10 alle 19. La mostra sarà aperta anche a Ferragosto. E ritorna dal 27 al 31 agosto il Festival Mondiale del Folklore Castello di Gorizia, giunto alla sua 53esima edizione, che è stata presentata stamane in municipio. Il capoluogo esantino sarà così nuovamente il luogo di incontro di culture, danze e tradizioni, con la partecipazione di numerosi gruppi folcloristici provenienti dall'Europa, dall'Asia e dall'Oceania. Abbiamo sentito il presidente di Etnos, Stefano Minniti, che ci illustra le novità di questa edizione. Le novità sono già nelle date, una giornata in più, quindi cominceremo mercoledì con la serata iniziale, con l'accensione del tripode del fuoco dell'amicizia, e dopodiché i gruppi balleranno in sequenza nelle giornate di mercoledì e giovedì. Venerdì e sabato si esibiranno tutti i gruppi, domenica ci sarà un grande concerto gospel che offriamo gratuitamente alla città, con un gruppo gospel di 50 elementi proveniente dal FVG Gospel Choir. Per quanto riguarda altre novità di spessore, mi raccomando, c'è una cosa da segnare e da tenere aggiornata nei propri taccuini, cioè la sfilata storica di domenica passa al sabato. E poi c'è anche il congresso, qual è il tema di quest'anno? Sono le tradizioni dei matrimoni, quindi il tema del congresso è arrivato già per questo congresso, la 49esima edizione, quindi parecchi anni di congresso a Gorizia, stiamo cercando di portarlo sempre più avanti con l'internazionalità di questo congresso. Già dallo scorso anno abbiamo la traduzione simultanea presente per tutti, perché ci saranno tutti i rappresentanti anche dei gruppi folcloristici che vorranno essere partecipi, quindi ascoltare e anche eventualmente intervenire. Una decina di gruppi, tra questi un gruppo arriva anche da parecchio lontano, dall'Oceania. Sì, abbiamo Papua Nuova Guinea, abbiamo dei gruppi che comunque ogni anno arrivano da una parte di tutti i 5 continenti. Quest'anno è molto particolare questo gruppo perché abbiamo anche dovuto fare dei permessi speciali per l'importazione di quelli che sono i loro costumi. Bisogna pensare che sono dei gruppi che raramente vanno all'estero, addirittura per alcuni di loro è la prima volta proprio, e alcuni dei loro costumi con piumaggi o aspetti particolari locali loro hanno dovuto necessitare di particolari documentazioni di importazione. Gli spettacoli, molta musica nell'agenda di oggi, con il concerto dei Nomadi a Lignano sul palco dell'Arena Alpe Adria, la band italiana più longeva e sempre amatissima. Nel nome del boss, gli appuntamenti in Castello Trieste, dove dalle 17 si aprirà un set acustico dedicato a Springsteen e alle versioni blues dei suoi successi, con una marcord del concerto del 2012 allo Stadio Rocco. Alle 21, sul palco di San Giusto, salirà Fantastic Negrito, il bluesman rocker di Oakland, diventato celebre dopo aver aperto i concerti di Springsteen. Siamo allo sport, la nazionale di basket a Trieste si sta allenando in vista dei campionati europei che per gli azzurri cominceranno il 28 agosto a Limassol contro la Grecia. Nel girone cipriota ci sono anche i padroni di casa, la Georgia, la Spagna e la Bosnia Erzegovina. Gli altri gironi si svolgeranno in Polonia, in Finlandia e in Lettonia, e proprio contro i baltici, che ospiteranno la fase finale poi di Eurobasket, l'Italia giocherà un doppio test prima del via sabato al Palarubini e poi al torneo dell'Acropoli, dove si confronterà anche con la Grecia. Questa mattina a Trieste il secondo allenamento della squadra di Gianmarco Pozzecco, il primo a porte aperte. Il pubblico avrà libero accesso anche domani e c'è molto interesse per gli azzurri del CT triestino, in una città sempre affamata di basket, come dimostrano i 3.000 abbonamenti già sottoscritti dai tifosi della Pallacanestro Trieste per il prossimo campionato di Serie A. Una situazione diametralmente opposta a quella che vivono gli appassionati di calcio, che non sanno ancora se potranno seguire la Triestina e con quale dirigenza, quando al via del campionato di Serie C mancano appena 2 settimane. Il tennis, al torneo internazionale di Cordenons, le speranze azzurre restano aggrappate a Gabriele Piraino, numero 411 nelle classifiche ATP, che oggi pomeriggio alle 16 cercherà di qualificarsi ai quarti di finale giocando contro l'austriaco Neumayer. Nel secondo turno è infatti uscito Carlo Alberto Cagnato, battuto in 2 set dal serbo Lajovic, testa di serie numero 2 del torneo. Con Lajovic promossi anche il tedesco Stebe, l'ungherese Piros e l'argentino Taverna. Il quadro degli ottavi di finale verrà completato oggi con i 4 incontri in programma dalle 13.30 sul centrale dell'Eurosporting. I primi in campo, il peruviano Gonzalo Bueno e il britannico Clark, di fronte anche l'argentino Kicker e l'ucraino Prikhotko, mentre chiuderà la giornata il derby spagnolo tra Taberner e Gurri. È tutto per questa edizione che è stata redatta e condotta da Andrei Marusic e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Caterina Cabrelli e Riccardo Ostojic, ha collaborato in redazione Cristina Polselli. Le 12:55, la prossima edizione alle 15. Grazie per averci seguito, ancora buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.